Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova settimana anche insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, tema ovviamente di stagione, quello dei saldi che sono partiti anche in Veneto sabato scorso. Ben trovato al presidente Adico Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao amico e un saluto a tutti gli ascoltatori. Partenza, mi è sembrato, da quello che ho letto, un po' in sordina, e poi gli stanziamenti quest'anno e anche le intenzioni di spesa mi sembra fossero abbastanza più basse rispetto agli anni scorsi, no? Sì, guarda amico, anche quest'anno l'Adico ha svolto il solito monitoraggio per verificare un pochino l'andamento dei saldi e capire anche le persone quanto spenderanno. Certamente ne è emerso un quadro sconfortante, determinato sicuramente dalla crisi, ma anche dal tempo che certamente ancora non si è stabilizzato e sta incoraggiando le persone a rinnovare un po' quel guardaroba che ancora non si capisce bene cosa metterci, cosa non metterci, perché insomma le previsioni non chiamano ancora a bello. Nei giorni scorsi voi avete invitato, come già negli altri anni, a fotografare il vostro acquisto sia nella campagna estiva che nella campagna invernale, per verificare appunto che non ci fossero difformità tra l'offerta precedente fino alla fine di giugno, all'inizio di luglio, e quello che poi effettivamente è andato in saldo. C'è qualche esito su questo? Avete già avuto qualche segnalazione? Sì, la campagna Fotografa l'acquisto è il terzo anno, quest'anno è stata ripromossa con grande entusiasmo, ho visto anche la richiesta che abbiamo avuto da parte dell'utente. Certamente bisogna dire che è un po' prestino per ricevere delle segnalazioni, se non quelle che comunque molti esercenti in un modo o in un altro avevano già cominciato ad avviare i saldi qualche giorno prima con i soliti metodi, diciamo, di fidelizzazione del cliente, ma certamente non rispettando quelle che le regole normalmente impongono in questo periodo. Però c'è, al di là di tutti i ragionamenti, quello che è emerso è sicuramente il budget che le persone hanno a disposizione, perché veramente quest'anno sembrerebbe che le persone, la gran maggioranza dei casi monitorato, ha dichiarato di non voler spendere più di 60 euro, mentre solamente il 20% ha dichiarato che spenderà più di 120 euro. Quindi certamente un quadro molto sconfortante, che speriamo che magari nei prossimi giorni la cosa migliori, perché anche per i commercianti sicuramente c'è bisogno di dare una ripresa, una svolta a questo periodo molto pericoloso. Sono consigli quelli che ripeteremo anche adesso, che vanno sempre ricordati, perché si rischia sempre, insomma, di magari di non conoscere alcuni diritti, ad esempio quello sul cambio merce, ad esempio il fatto che si può pagare comunque con qualsiasi mezzo, anche la moneta elettronica. Ricordiamo, Carlo, alcuni di questi consigli in tempo di saldi. Sì, innanzitutto le persone, il primo consiglio che noi ci teniamo a dare è sempre quello di preventivare un attimino quello che è il costo che si vuole prefiggere di voler spendere, perché altrimenti si rischia, per chi ha la fortuna di non rientrare nel nostro campione, spendere di più e portare a casa già un frusaglie. La seconda cosa è quella di diffidare di sconti maggiori del 50-60%, perché si rischia di trovarsi rifilati un avanzo di gestione anziché una merce di questi giorni. Poi controllare sempre la solita etichetta e la provenienza, ricordarsi che un bene è in garanzia per 2 anni dalla data di acquisto, il commerciante è obbligato ad accettare qualsiasi forma di pagamento, carta di credito o bancomat, e soprattutto poi sapere che nel caso il capo viene rovinato o abbia dei problemi, c'è la garanzia o la possibilità della sostituzione, se questo insomma non risulta ripristinabile o è stato acquistato fuori dai reciti commercianti. I consigli sempre validi per questo periodo. Sì, il budget, dicevi, è abbastanza limitato quest'anno, nonostante per molti ci siano gli 80 euro in busta paga in più da un paio di mesi, da un paio di buste paga, ma che magari sono state impegnate già in altre spese. È sempre possibile cambiare il capo, perché parliamo soprattutto di abbigliamento, chiaramente. Sì, è sempre possibile, però non bisogna mai darlo per scontato, perché normalmente quando si acquista presso gli esercizi commerciali non esiste diritto di ripensamento, cosa che molti consumatori fanno ancora fatica a capire e pensano magari di averne diritto. Esiste la possibilità solamente di sostituirlo qualora questo ha un difetto. Bisogna fare attenzione a quello che era il prezzo originale rispetto al prezzo proposto durante i saldi, perché segnalazioni negli anni trascorsi ci avevano fatto vedere di come alcuni prezzi erano stati maggiorati per poi, per effetto dello sconto, riproposti al prezzo originario. Quindi noi come Adico inseriamo sempre durante questo periodo e invitiamo sempre i consumatori, qualora che si trovano in situazioni di difficoltà oppure di dubbio, a rivolgersi sempre all'Adico. E infine, comunque, noi ricordiamo sempre che per qualsiasi dubbio ci sono anche i vigili urbani che sono gli enti preposti. Eh sì, per tutto quanto riguarda il commercio a livello comunale, come rappresentanti del sindaco. Tutti gli ulteriori dettagli anche sul sito associazionedifesaconsumatori.it. Ci ritroviamo tra un paio di giorni, Carlo, per un caso particolare che è quello di alcuni buoni massaggio. Una vicenda che va davvero raccontata, quindi ci ritroviamo tra un paio di giorni. Grazie e buon proseguimento. Grazie a te, amico, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.